Rispondo alla tua domanda, Cristina, e come posso, ecco, qui a Bergamo e provincia il colpo di questo virus è stato forte. Basti pensare che in questi giorni arrivano i primi esiti degli esami sierologici fatti a Nembro Alzano, i primi due paesi più colpiti, dove la zona rossa però non l'hanno mai fatta e che quindi dove il virus si è diffuso un po' ovunque. Da questi primi esiti, sui primi 750 test, risulta che il 62% della popolazione è stata in contatto col virus e quindi hanno gli anticorpi ora, e questo dà l'idea di come il virus abbia galoppato. La sensazione in generale è un po' di tutto il mese che abbiamo avuto per tutto il mese di marzo, ma anche aprile, fino alla metà di aprile. Eravamo tutti in grande ansia per i familiari e i parenti, pur andando al lavoro, perché abbiamo lavorato, io personalmente ho lavorato fino al 20, fino all'ultimo decreto di marzo. E quindi c'era la paura per loro, e quindi si lavorava col cellulare acceso, guardandolo, e c'era quest'ansia, ecco, più per i familiari che per me stessa, devo dire. E in generale era un po' così. E poi, dopo il decreto del 20 marzo, ma anche prima, insomma, prima quando per esempio uscivamo dal lavoro e vedevamo la desolazione per le strade, un po' ovunque nei posti, nei supermercati, la paura e il silenzio ovunque, che impressionavano, perché il tutto era in mezzo al suono del continuo, costante, ossessivo delle ambulanze che passavano in continuazione su qualunque strada. Dopo il 20 marzo lo spazio è diventato ancora più vuoto e i volti delle persone, dei vicini, le poche persone che si potevano incontrare, magari facendo due passi, erano pieni di sgomento e è come se ci avesse colpito una bomba, insomma, non saprei dire in altro modo. Nel frattempo siamo venuti un po' a conoscenza, un po' più approfonditamente di quello dei tanti morti, ecco, anche di conoscenti, oppure avevamo familiari colpiti, vicini colpiti, e quindi l'attenzione era tutta lì. Credo senza grandi differenze tra uomini e donne su questi tipi di sentimenti. Certo, per le donne vedevo c'era più lavoro in casa, anche se c'era un po' più di aiuto. Però io vivo sola, non ho questi problemi. La mia ansia, il mio pensiero erano per i miei, questo sì. Avevo anche alcuni familiari colpiti, quindi non c'era tranquillità assolutamente, questo non era impensabile. Ecco, poi potrei dire che la paura sì c'era, però c'era anche molta solidarietà. Si cercava di aiutare i vicini in quarantena, per esempio, e si cercava di capire un po' di più cosa fosse successo nella nostra zona e le situazioni di criticità qui erano tante, ecco. Quando le fabbriche hanno chiuso, il pensiero è andato comunque anche alla crisi economica che si profilava. Prima ci siamo sentiti, mentre andavamo al lavoro e fermavano invece le scuole, le altre cose, insomma. E non chiudevano le fabbriche, ci siamo chiesti che cosa contavamo noi per i nostri politici, sembrava quasi che la nostra vita, insomma, valesse molto poco. Ecco, poi in qualche modo hanno cercato di dare un significato diverso al fatto che si doveva andare al lavoro, ma noi sappiamo di essere la parte in fondo, diciamo, quelli che devono dare il sostegno all'economia del paese. E sappiamo anche che ci considerano molto poco. Ecco, e quindi questo non ha portato a un certo punto, sì, anche alla parecchia rabbia, ecco. Quando siamo rimasti a casa, questa situazione un po' irreale che abbiamo cominciato a vivere con le ambulanze che passavano in continuazione, con la protezione civile che con i megafoni passava sui furgoncini, diceva state in casa, state in casa, tenendo conto che fino al giorno prima eravamo al lavoro, ecco, mi ha fatto anche pensare al fatto che si lamentavano che ci fosse il 40% dei lombardi in giro, ma il 40% dei lombardi in giro andava al lavoro. Ecco, dicevano state a casa, però noi dovevamo andare al lavoro. Ecco, quindi poi sembrava di essere piombati in un libro di Philip Dick, di un'irrealtà assoluta. Una volta alla settimana più o meno, sì, una o due volte a seconda dell'entità del nucleo familiare, si andava a fare la spesa e abbiamo dovuto anche aspettare, essendo una frazione senza negozi, che ci dicessero dove andare, non si capiva bene. Ecco. Poi ci è stato detto, si è fatto e nei supermercati risultava questa cosa. Quello che ho notato io è stata la solitudine dei pochi anziani che si incrociavano, come se fossero stati feriti, colpiti, perché certe parole poi che sono uscite nei telegiornali, sui giornali, come se la loro vita valesse tanto poco, perché dicevano, insomma, muoiono solo gli anziani, però sono anziani. E questo secondo me li ha feriti molto. Così come nell'aiutare un poco i vicini, magari che erano in quarantena o queste cose, ci si sente di fronte a queste cose quasi disumani più che umani, perché è come se venisse fuori sempre questo lato spaventato della nostra umanità, questa ferita che si allarga su tutta la comunità. E se uno la osserva bene, insomma, vede che non siamo poi tanto belli come persone. Ecco, che potremmo fare tanto di più e non ci riusciamo. Ecco, c'è da dire che poi adesso invece con il rientro al lavoro la paura anche della crisi economica aumenta, la paura di perdere il lavoro c'è un po' dappertutto, sia per gli uomini che per le donne è più forte perché hanno a casa i bambini. E non sanno come fare. Il fatto che tanti anziani siano morti, gli anziani qui in questa zona, ma penso anche altrove, sono stati spesso in questi anni dal 2008, nel 2011, 2013, durante tutte le crisi economiche pesanti che abbiamo vissuto, sono stati il supporto affettivo per la cura dei bambini, quindi un aiuto a nipoti e a figli e a nipoti, ma anche un supporto economico forte, perché dove i figli non ce la facevano, loro c'erano e adesso non ci sono più. E quindi bisognerà anche vedere come faranno tante famiglie a mettere in tavola e a pagare bollette, ecco. Soprattutto se la parte femminile, le donne non ce la faranno a tenere il lavoro perché hanno a casa i bambini, perché possono essere tante le incognite, ecco. E i contratti delle donne in genere sono meno forti di quelli degli uomini, ecco. Una grossa parte di queste donne lavora anche con contratti precari. E ora non si sa quanti verranno rinnovati e quanti non sono stati rinnovati perché nel frattempo era scattata magari la cassa integrazione. Ecco, questi sono tutti punti di domanda che fanno pensare al peggio. Ecco. Ripeto, la paura di perdere il lavoro è di tutti. C'è anche la prospettiva per ognuno di noi, per chi ha dei familiari in difficoltà, si sa che dobbiamo aiutare e si fa volentieri, però diventa ancora più essenziale riuscire a conservare il posto di lavoro. se la crisi spazzerà via molti posti di lavoro, sarà durissima per tutti, non ho idea di cosa possa succedere, ecco. E la solidarietà verso la comunità si sente, qui almeno si sente, si cerca di aiutare, insomma, di fare quello che si riesce. L'impressione di essere però poco, di avere poco potere, più di piccole cose non si riesce a fare, ecco. E ci si aspetterebbe altre risposte dal mondo politico, però non c'è nessuna fiducia sul fatto che possano arrivare. E questo è tutto quello che posso dire.